Sì, sì, Bacchisio, Bacchisio, QTC urgente, Bacchisio. Tocca! Oggi un po' una giornata così, però vediamo come si migliora, diciamo, l'aspetto. Tocca! Sì, però se è premuto il PC a parte, perché capisco molto. Buona, Graziano! Graziano, mi ricevi? Ebbe Luca, piangendosi! Ebbe Luca, mormitosi! Eia, se ti sto chiamando, è che sei sordo! Oh, grazie, ma cosa vuol dire quando si riempie troppo il braccierino di pellet? Non ce la fa bruciare, infatti l'abbiamo abbassata a uno, che era tutta piena di pellet. Cosa vuol dire? Che il pellet non serve quello. Quello a me, il braccierino, me l'ha rovinato. Proprio il pellet, quell'accumulo che fa dentro nella zuppa. Quando finisci di spenderla la zuppa, si accumula e surriscalda il braccino, te lo gonfia e te lo spacca, come ha fatto a me, due volte me l'ha fatto. E quando il pellet non è adatto alla zuppa. Tu lo stai comprando adesso? Io stamattina l'ho preso la Brie all'Eurospin perché è a vette, è bianco. A me mi ha crepato due portacenere, uno ce l'avevo buttato, l'altro si è crepato, ce l'ho nel terrazzo, vedo di recuperarlo. A chi l'ha più pagato? 60 euro, però l'ho dovuto comprare. Il mese scorso, 60 euro, il portacenere, quello con tutti i buchi, quello si surriscalda, si gonfia, si grima, dove ci sono tutti i buchi, e ci va da pizzi. Tu a me me ne ha fregato, vero Paolo? Anche noi... Anche lì lo prende dall'Eurospin, eppure sta facendo questo problema, non lo so. Infatti io quando lo aspiro trovo pezzi grossi, quella te l'ho bruciato bene, mia, che, prima di pranzo l'ho pulita e c'era il pellet a pezzi grossi. Però dimmi una cosa, l'hai pulita e di fronte quando apro lo sportello nelle portacenne c'è quella piastra, no? Così è. Non ho capito, grazie. Nella stufa, quando la pulisci, che poi levi il portacenere per pulirlo, la piastra che c'è di fronte, dietro lì non lo pulisci mai. E sotto il cassettino dove c'è il raccoglitore della cenere, lì ci dovrebbe essere una piastrina che si svitta la vite e c'è una ventra, e quella la devi pulire perché ci va a cenere, la devi aspirare. No, non c'è la piastrina lì, no, no. C'è il posacenere, c'è il portapellet, diciamo, da quello con i buchettini, poi sotto c'è il cassettino, sotto ancora non c'è niente, tutto chiuso, e sopra c'è un tappo, lì do colpi, poi c'è un pulisci anche quel coso lì. Ah, io da me la apro nel cenere, vedo sotto il cassino la vite, c'è un coperchio con la vannettone, lo alzo e lì sotto c'è la ventola, perché dentro dove metti il portacenere, se guardi ci sono due uscite, uscita di altro che a sfida, uno è a destra e una a sinistra, e se guardi il portacenere c'è il buco da una parte dove passa l'aria, capito? E dunque ci deve essere per forza lì la ventola. Sì, però come si dice, vabbè, adesso lo sta bruciando, dai, una parte sarà bruciata, però domani quando vado a aspirarla lo trovo tutto a pezzi grossi. Adesso controllo bene domani, l'altra invece, dove c'è nel pellet, nella parte frontale diciamo, no? C'è quel buco dove c'è nel pellet, lì c'era un tappo nell'altra stufa però, che si apre e sotto ci sono quelle, come si chiama, le guarnizioni in coso, in come si chiama il materiale, Mari? Quello che punge sotto, che con le mani punge. Ah, la vetro, sì. Ah, di vetro, bravo. Nell'altra stufa che abbiamo, da che non c'è, l'ha cambiata, dai. Perché usciva fumo, odore di fumo da dietro, boh. Non abbiamo capito il perché. Lì sì, che sì, c'era questo tappo frontale, si svitavano le viti. Lì sì, però questa qua non ne ha. Comunque domani la controllo bene, dai. Che purtroppo adesso non è manco il periodo di controllarla. C'è anche il fianchetto che è mollato. Infatti molte volte fa rumore perché vibra. La mia, allora, a parte che il tecnico mi ha detto, lei deve adoperare solo a bete, questa stufa brucia solo a bete. O se no a mette faggio, però quando la pulisci almeno una volta al mese ne devi levare la piastra. Io adesso ultimamente non ci sono riuscito a levarla, però l'ho sollevata e l'ho tutta aspirata dietro questa piastra, e non sai cosa viene, era pieno di ghigina, di furigine dietro questa piastra dove sale la fiamma, aspira, capito, aspira e fumi e va tutto nel circolo e poi va al tubo, capito? E poi dovresti controllare dietro. Ah, dietro lo scarico? Dove c'è il tubo di scarico dietro? C'è quell'attino, il pezzo che entra dietro e poi dove è innestato il tubo. Lì, in quell'attino sotto, ci dovrebbe essere un bollone. A meno che non c'è quello sporco. Dunque ne devi staccare il tubo, levarne quel pezzo della T e pulirlo, anche intanto è brutto. E lì c'è, come si chiama quel tappo, Mari? Da dove c'è la stufa, dove è quello dietro il tubo? Ispezionabile lì. Sì, no, lì non c'è il bollone, capito. C'è il tappo... Quindi questo tappo è... ma non emette lì il pellet, cioè fuligine. Tu c'hai il bollone, ma io no. Non sono tutto uguale, io comunque il pellet mi fa quel difetto lì. Io adesso l'altro giorno che ne ho preso altri tre sacchetti di vetro, cosa ve l'ha scritto in chissà, abete di legno ve l'ha scritto. Però a bette di legno mi fa il pelo, brucia sì, ma non bene bene, ne rimane un po' dentro il portacello e poi me lo fa tutto a puntini e mi c'ha di fare sabbietta, sbari, mi sabbia, perché la mattina quando la pulisco è tutto bormandato il vetro e l'ho preso con le mani, tutto che la valle ed è sabbia. Si buono in un bel di prodotti chimici in mezzo, mondezza, abusi, buoni. E quando ci si formano quei pezzi grossi? Perché il pellet in mezzo c'è mondezza, c'è colla, residui di colla, mondezza, mezzo. Allora forma, la braccia non la fa e forma la plastica, e fonde la plastica e tutti i materiali di mondezza che ci mettono in mezzo, si intasa il portacenere e non soffia bene la ventola perché ti otturano tutti i tubetti, i buchi e ti greba il portacenere e poi non funziona neanche bene la stufa, capito? A me non sta facendo, l'ho tutta smontata. Infatti qua sono reso conto che come era a 5 si andava troppo pellet, non ce la faceva a bruciarlo. E chi su pellet non si ne annuta. E poi il tubo, l'avevi burito, no? Secondo me era burito. Mi ha aiutato a cavare, l'ha da abbassare, dai. Beh, allora ho giocato un doppio di chi ci aveva cavato prima, sono andato a Bricome e mi ho preso quello che pulisce i tubi dentro, è una plastica rotonda con tanti spinuti là, e c'è entrato quella dentro il tubo, adesso la ghigina che ne fa, che era incollata ai tubi, perché quel pellet, l'esalazione del fumo, ci ha portato tutta quella specie di colla dentro i tubi. Hai capito? Bisava un trono, a chi era tutto attaccato. Ma posso immaginare, è un casino. Adesso vediamo, dai, vediamo un po'. A Bette il solo alla fine a comprare basta, perché c'è a Bette e Faggio, capito? Io a Bette e Faggio lo uso ogni tanto, mi fa appena appena il vetro sporco, o quello della Bricome, a Bette e Faggio, e funziona. Però mi va di più mondezza, compreso? A Bette e Faggio dura di più a bruciare e ti dura di più anche il pellet, capito? Perché mi sa tu con il faggio che è un legno più duro della Bette, capito? Però già funziona, vero, con quello della Brico, eh? No, sì. Ma anche con quello della Brico, sì. Adesso l'ho preso all'Eurospin e adesso la Bette. Bianco, che ci brucia tutto, il portacene rimane bello pulito, ma con mondezza, beh. Così, ma adesso ci ha fatto un bel buono. Ce ne sono parecchi che ti rovinano la stufa, mi è cannonizzata. Si lampa la stufa, mi chi c'ha la zia di Maoletta, mi dà la lampada, chi mi? Il piano rotto. Vabbè, ma il motorino farà mai. Da perché ha sforzato la ventola, gli ha bruciato il motore della ventola, capito? Tony, io non me ne affitto nulla, io il più prendo sempre a Bette. Ho preso di due a Bette di legno, la giù bruvata e barò mi brutta la stufa. Che cazzo a Bette di legno, chissà che ammondezza è. E quando trovi una marca che vedi che va bene, devi comprarti sempre isso, capito? E alla fine come dice la Bette? Sì, te lo sto dicendo, e poi la Bette, si caldi un po' di più, la Bette già lo sai come in te. E legno bianco, la Bette sono ridori sotto a misura, mi pochi malati, quelle tappole sono di Bette. E no, lo mischio, guarda, c'è il pup. È strano che stava uscendo anche puzza, comunque un po' di puzza si sentiva. Eia, perché mi quando domani pulisci il portacenere, vedi che c'hai tutto il portacenere pieno e ci va di burro dosso, mi. Quella specie di cenere da buzzinosa, collosa rimane. Se ti trovi il genere lo devi arracciare con un cazzo a vita che non si scaccava manco da un portacenere. Io preferisco pagarlo anche di più, però prendo a Bette, non me ne affutti nulla. A chi da voi ti vai rumazzo a pulire tutta la stufa, ti faccia brulare la stufa. A me mi ha fregato due volte, l'ultima volta era 4 anni fa, perché ho guardato la fattura del portacenere ed è esattamente 4 anni fa, adesso me l'ha tornata, l'ho ricomprato. Ma non sei stracco ancora, novità. Bubu. E tu di Abucano sei stracco, un tappino di Nebucano. Oh, da fa vedere un po' con cazzo. Mi mai fosse impegno, ma fai tagliare rai, che è proprio cronista, cosa le dici? Ha già superato l'idea, l'ha già fatta la domanda in un telegiornale, ma le dici così. Siccome mi stava chiedendo come mai la sua sta facendo questo difetto. Ed era quello, dal pellet che non va bene. Ah, vero? E allora? Non è una stufa quella che brucia che brucia tutto, c'è anche la stufa a pellet che brucia tutto e poi buni tutto, pure la legna in certe stufe a pellet e poi buni e la bruciano ma stessi. La mia brucia anche il ferro, tutto brucia la mia. Ma ce la do io una bicicletta, la giuvincia, 30, rettangolare, ci mangi poco bello e te chivi, ti fai romazzo a pulirla, su che brucia tutto. Ma tu hai voluto la stufa per te sa mia, cazzo. Davvero, faccio da pulire e brucia anche il ferro. Quella che brucia c'ha tutto, ah, normalmente canto buscava, però era troppo umano e la gente no, a me non mi serve chissà, troppo matura, e cosa devo cantare, un capannone, era troppo grande. Ciao, grazie. Chi è? Non sei uscito. Ciao Luca. Vittorio sono. Attacca tu papi da casa, non so chi io. Allora sono si impegno per portarsi la RAI a fare un cronista a casa. E si va in cosa si ferma così, no? Una matracca è. Per carità, Luca. Buonasera comunque, vai. Comunque. Basta, sempre basta uno, ma la buccia sono bella. E c'è pure tutto il vetro nero, non si vede niente, allucinante. Come mai? Ora è il sacchetto di quel pellet. Ah, il sacchetto del pellet è marroncino così. Marroncino più basso. Dove l'hai preso questo pellet? Se ce l'ho io, sono quello delle rospie. È verde il sacchetto ed è abete. Solo abete. Solo abete c'è scritto. E cosa vuoi ti dica, grazie? Quel problema sta facendo? Non so. Forse quando sono rientrati era tutto pieno di pelle, c'era una grande grande. E c'era anche un po' di puzza. Usciva la puzza di fumo dalla ventola, da dove c'era l'aria calda. Ehi, perché c'è mischiata quella specie di bucaria collosa con friggio? Speriamo che non te l'ha già sporcata del tutto dentro, se no li devi pulire tutto, però del cambia il pellet, non ce lo rimettere quello, mettici solo a mette. C'è allora il sacchetto è verde, li ha presi oggi mia figlia, l'ho mandata stamattina. Macchia, cos'è? Non brucia bene lui? No, infatti l'ho messa a uno. A uno, cazzo, a uno, cosa vuoi? No, non è che bruci bene a uno, no. Due a tre, allora va bene. Cattolina, se l'ha messa a uno, non brucia, cazzo. A due comincia a bruciare, a tre via, va sempre a tre. Cazzo, si la vede che un bombo, prima me la mettava chi, con i vasi a fiamma. Ah, ma è bella se piazza che un bombo. Ma non hai capito, no? Prima me la via a tre, e l'ha fatto la zuppa, tutto lo prendo, niente, non si vede nemmeno dentro. E l'ha sporcata e non sta bruciando bene, perché è il pellet che non serve. Ah, uno non la brucia bene. Infatti, aspetta, c'è il coso che sta sempre sopravvivendo, non lo sentite? Vittorio. No, io non lo sento. A uno non brucia bene, sì, perché basta, però se la mette a tre, brucia male in una testa che non serve un pellet, capito mi hai? E io conosco la mia, e tu conosci la tua. Così che ognuno conosce la me con la Giulia e sai come te come te lo è. Piacere, chi se lo sappia a Burueva, a te le immagini, Luca, te giurai. A me, se mi dai chi si cagnolini, se il buco detto brucia bussi cagnolini ci mi hai mandato. E l'hai mandata a bussicarti la cosa. Per carità, Luca. Grazie, tu graziano. Quello lì te l'ho mandato dall'aldilà. Era un cagnolino mio che è morta. Oh, mio, lo stai uscendo chiaro, Lo stai uscendo chiaro, meno me. Perché c'è la ventola accesa. Perché? Quando c'è la ventola accesa esce così. Fa del rumore, no? Ma quello dell'alimentatore. E poi c'è anche la TV accesa. La cappa è accesa. No, mi dispiace, lo stai uscendo bene. Sì, lo sei tu, Ehi, no, sono Graziano. Graziano Rossi lontano, diglielo lui. E allora? Diglielo Luca, sei prignita. Cosa? Figurati che l'altra volta quando mi ha fatto così, l'ho spenta, l'ho lasciata raffreddare laggiù, tutta pulita, l'ho lasciata raffreddare, torna, l'ho riaccesa dopo che si è sfreddata. Tempo di un'ora lo prendono per il macco la fiamma e che è faccio bianco bucinoso. E manca questa qua, sta faccio non puzza. Infatti era a due, l'ho messa a uno. Mi sa che adesso sta bruciando meglio, ma chi se ne frega. Però boh, che strano. Secondo me stanno facendo un pellet schifoso per rovinare le stufe. Mentre non ho detto rubata ne va a pellet, non hai compreso. Se tu guardi anche in certi pezzi di pellet, se lo prendi lo sbricioli. In mezzo vi sono i graffetti dei giornali. Quelle di ferro, le graffettine dei giornali, delle riviste. Ragazzi, burrovisci, anche se buono in immondezza, mi. C'è anche la CRAI, mi, qua, vicino al treno. Solo a pette. 5,69 euro. Solo a pette, bianco, solo a pette. Tu c'è un mari cosa usi? Cos'è? Pellet usi. Beh, io quest'anno ne ho presi tre tipi. Tre tipi, non mi ricordo i nomi, capito? Però quello che non so che marca è, cosa è, cosa vuole. Quello della Colala è buonissimo, o più quello che c'ha a Carrefour. Con il Carrefour è un mammo, ma sai quanto scalda è, e poi va bella fiamma che va, è mammo, quello di Carrefour. Però la marca non mi ricordo, ma il sacchetto mi sembra che è mezzo rosso. È sporca a poco, come la pulisce, come la fa? Comunque se tu puri bene la stufa domani, però la devi pulire bene. E se ti guardi il pezzo del tubo che c'hai lì dentro, vedi che è sporco il tubo. E c'hai bene, se vedi che non te lo fa, perché il pellet è quello che non serve. Paolo, lo brucia bene, grazie. Quello puoi fare prima, quando lo vedi, lo metti a tre, no? La fai scaldare bene, va bene, dopo un'ora due, ecco, allora la puoi ammassare, allora va bene, ma se no così a uno non brucia niente, non brucia bene. Mica ce l'aveva a tre, ha visto che non stava bruciando, che il vetro era tutto nero e l'ha messo a uno adesso lui, capito? Ah, così, va via, mi accorre a tre, l'ho accesa alle 5, accorre a tre e me la lascio così a tre, cosa? Non ammasso, già da me. Quando c'è freddo la lascio, se magari quando c'è caldo allora la metto a due, capito? Io l'ho accesa a mezzogiorno e mezzo, quando ha finito la boletta di burini, gammare che ha chiuso le finestre. E tu ci vieni e la prendi per sempre la fiamma scarsa, bianca, pulita. A chi l'ha giù dimensata, tutta la testa è pulita. E poi ho cambiato il pellet, a chi era un pellet grigio, e quel pellet mio l'ho dato a mia cognata, perché la sua brucia tutto. Aspetta che leggo cosa c'è scritto in questi, perché io non ho mai capito un tubo. Aspetta, adesso me lo leggo, questa che ti ho preso da capo, che è buonissima. Oh, la stufa mia me lo brucia bene, scalda veramente. Aspetta che te lo dico. Ehi, è come quella di Luca Prisper. Mi ha detto che la gioia brucia tutto. Brucia anche il nocciolino, quella di Luca. Vuol dire che è un altro tipo di... c'è un altro tipo di bruciatore, quella su qua. E puoi mettere qualsiasi pellet e lo brucia. A me un nocciolino l'ha brucato, non fa... mi fa la stufanita e non lo brucia bene. Tu domani ti appendi la buri bene, pure un tubo di buri e cambia pellet e vedi che la stufa funziona bene. E quel pellet, al limite se ne va bene, lo vedi a cacca di uno che... No, magari prova a No, se gli ha fatto la stufa così, quel pellet, prima non glielo faceva, vuol dire che era diverso il pellet, magari era bestia. Sì, adesso vediamo, ora cerco di vediamo meglio. Io quello là l'ho dato a mia cognata, perché quella è mia cognata, ne faccio tre di la stufa mia. Sì, a due motori, perché gli hanno preso... uno o due motori, e brucia tutto la sua, capito? Lei c'ha due motori e un tubo è convogliato nelle camere da letto, capite? E ne va di due di la mia. E anche il motore è più, sono più grande e caldi di più di chi c'ha un triplo. E si ha della megonia dentro, è mondante. Beh, se è grande, pompa di più e manda più aria calda. Guarda che anche qua ne fa caldo di questa stufaghiciuccia. Anche qui in maglietta stai tranquillo, in pantaloncino. A chi fa un bel gatto? Io già mi tocco in cucina, gli entra l'aria, ma se si no, già sta bene. Ma che qua già scalda, una volta la metti a 5, stai lì e scalda, fuggia. Eia, però tu, e il pellet è quello, a me me l'ha detto un tecnico, mi l'ha detto, chi me l'ha giurito? Ah, ultimamente, chi ha già telefonato, adesso c'aveva il portaceneri, se no me lo dovevo ordinare tramite internet. Gli davo la sigla alla ditta dove l'hanno costruita e mi mandavano il portaceneri. Chi avrà la prossima volta, se mi capite di venire in corso, me lo ordineggio, anche fuori costa 30 euro, e chi su, in occhio me l'ha fatto un bagaglio a 60. Grazie, pur ammette, senza prodotti chimici, pur ammette. Visto, brucia come il mio, se tu buoni chi ci va a Luca, ti balla tutta la stufa. Ammette solo devi usare, puro ammette. Non quello legno di ammette, perché ho provato quello, già te lo brucia, però ti brucia più la stufa e fate più chi gira. Invece pure ammette, chi gira viene poco e nuda, o no? Sì, pure ammette ci vuole, pure ammette. Questa è quella che sto dicendo io, pure ammette, senza nessun prodotto, capito? Solo ammette, pura. Grazie. Si può immaginare, va bene, va benissimo, è buonissima, catta, va bene, per la mia va bene, adesso lo so a Luca se va bene quella lì. Ehi, ciao Bacchiglio, è entrato a Bacchiglio, ehi, ci vuole quello da Luca, una mente, vai Bacchiglio. Ok, ciao Graziano, buonasera a Gian Maria e anche a Luca, e buonasera anche agli altri che non hanno ascoltato. Avanti ancora, grazie. Ehi, sono io e Luca, siccome il pellet che sta adoperando Luca gli ha sporcato un bel un pellet di 13, mondezza. Ehi, mondezza. Pura abete, costa anche poco. Vi dico dove, andate a comprare abete puro. Ehi, c'è anche qua vicino al negozio, che negozio? Alla Crai. Alla Crai, c'è. Abete, bianco. Pura abete, vicino a casa tua, ma stessi mi bacchi. C'è, di lì lo stanno vendendo anche lì. Ehi, vicino a casa c'è, però la bricocina pura abete costa 4,80 euro. Non lo sapevo io quello, già lo so, sì, perché l'anno scorso l'ho preso anche alla bricocina pura abete, sì, vero, e costa più pochi. Lo so, non ci avevo pensato. Ehi, costa poco. Avanti, Luca. Ehi, ciao, Bacchi. Dov'è che costa poco? A Bricocina. Non sai dove è Bricocina? Dove? La ratatouille. Bricocina. 4,80. Risolto il problema, là. Ehi, deve ritornare perché deve collegare i fili fuori, non so che cosa. Metteci un momento ma vicino glielo faccio. A me ti ha fatto buon prezzo? 70. Insomma, se sa buon prezzo. Non è un buon prezzo, 5 minuti di lavoro. Loro hanno l'esperienza, capito? Fanno solo quello, capo, cancelli elettrici, eccetera, eccetera. Io per fare danno meglio che non me l'ho rischiata, non... forse ci avrei messo un paio di giorni, mi avrei studiato bene i fili, ma poi no, non mi fido di no, dai, male facevo danno e ci devo, male ci rimettevo io. No, è stato bravo, ha scollegato, in un momento ha fatto tutto, solo che il lampeggiante rimane un po' di più acceso, rimane un minuto, capito, rimane un minuto in funzione e poi si spegne. Però l'altro di lusso, ho fatto vedere quella scheda, ci hanno fatto un ponte dietro, è tutta bruciata. Infatti c'è un ponte fatto, l'hanno salato con lo saldatore. E chi l'ha fatto? Chi ti ha fatto il lavoro te l'ha fatto? Sì, allora chi ha fatto il lavoro ha fatto quello lì. Perché la mattina stavo piazzando, erano le 2 e dice no, ci andiamo a pranzo e poi ritorniamo. Si è portato via questa scheda. Però io qualche ora prima ho visto una fiammata. Io ho detto, hai preso il colpo, hai fatto, non è niente, ha toccato il cacciavite, vabbè. Invece ci ha portato via la scheda che ha fatto quel ponte lì, e non funzionava per quello. Infatti mi ha detto con il ragazzo, dice, non potrà mai funzionare. Cosa è caduto? Infatti mi ha detto, la faccio vedere a Luca, e capita, la faccio vedere. Invece si poteva fare qualcosa, dice, non buttarla, la puoi recuperare. Ma la scheda? Sì, ja. Non c'è niente di bruciato, ma fammela vedere, se è da farti, no, non così come l'ho fatto la cagata, se è da farti una pizza non ci sono problemi, te la faccio. No, bisogna vedere la gente che capita, io non ne capisco niente, lui, ti dico la stessa verità, gente che ci lavora sopra sa cosa fare, e già capita te la faccio vedere. Bene, Mesa, avanti Gian Marie. Ok, non vi stavo seguendo perché stavo parlando in verticale, ma illumina di che cosa stavate parlando? Della centralina della Serranda. Ah. Ebbene, perché il saldatore lo sono ben fatto? Non ho capito. L'ha detto così, lui. Il saldatore è male fatto. Cosa, Gian Marie, scusa? Stavate parlando di una scheda, che scheda è? È la scheda della siccome qui c'è la Serranda elettrica, no? Col telecomando la apre. È quella scheda lì. Ah, ecco. Ho capito. Ho capito, ma chi riprendi? Sono venuto adesso, la sera lì. Io te la stai aspettando e poi è arrivato. Perché mi ha telefonato e dice sto caricando legna. Appena finisco caricando legna vengo da lì. Infatti è venuto da già buio. Ho capito. Che ci raccomando gatto, ogni tanto fate giù. C'avevo un televisore che l'ho portato in campagna l'anno scorso. Ed è un Sansuri. Cazzo, di qua funzionava sempre bene, per un annetto, dopo ho cominciato a rompere le scatole che non cambiava più canali. Ed era dal telecomando, guarda, era tutto il vapore della cucina, perché ce l'avevo cucina. Da quello lo cambiava il canale, prima c'avevo qua, dopo lo porto in campagna, adesso se lo vede funziona che è un bambù. Come mai? Stavi dicendo a me, Giovanni? Ah? Stavi dicendo a me, scusa. No, tutte e due stavo dicendo così, capito? E adesso funzionano tutte e due, funziona benissimo. E qua non funzionavano. Forse magari era forse il vapore, magari per quello che lo cambiava, mentre in campagna il vapore non ce n'era, si è asciugato magari e funziona tutto. E prima lo cambiava, lo cambiavo o qua dopo che non funzionava il telecomando, lo cambiavo direttamente dalla TV. Allora, i telecomandi, vabbè, col vapore si sporcano dentro, bisogna pulirli ogni tanto, cioè magari smontarli e pulirli bene con l'alcol, la scheda, e poi sciacquare bene la tastiera, diciamo, dai. Messa a bagno con lo sgassatore, lavata bene, asciugata bene, ripiazzata, vedrai che ti dura anni. Ma io pure ho pensato a quello, perché se qua non cambiava, lo portavo in campagna dopo un po', visto che ha funzionato sempre, e poi è tuttora, se scendo funziona, che qua non funzionava, se qua ti raccomando, l'ho messo già da una parte e lo facciamo cambiare il canale dalla televisione stesso, capito? Mentre invece ho portato giù e si vede che magari si è asciugato e funziona da telecomando in campagna. Ma forse il vapore anche della cucina, perché magari io ce l'avevo in cucina quello lì, capito? Forse il vapore della cucina no, magari era sporco la cosa, il vapore lo cambiava per quello, il macello. No, se non c'è caloria, magari in altre camere dovrebbe funzionare perfettamente, penso io. Oh, potrebbe anche sporcarsi, Per forza, anche con le mani, poi mettiamo sopra un pezzo di cielo, ho capito, quello che usi per coprire il mangiare, un pezzo di quello, e non si sporca. Io faccio a tutti, cioè sono quattro qua, sono tutti volti in quella plastica bianca, trasparente, capito? È per quello, però non funzionava nemmeno, capito? Evidentemente ha penetrato umidità dentro e non funzionava. Ma chi? Io e tu funziona? Ehi, funzionano. Funzionano tutte e due qua. Capito? Adesso funziona anche la serranda, funzionava anche prima, ma adesso funziona migliore. Almeno per la luce. Ma Graziano, bisogna andare a cosa non funziona, e già c'è la giusta lui, vero Graziano? C'è una serranda elettrica, già la so aggiustare. A me quando si blocca il telecomando lo porto a te e me lo metto a posto, va bene? No, se mi va a vedere di serrandi, la gente su serranda elettrico. La serranda elettrica, stiamo parlando della serranda elettrica. Telecomandata a distanza. Se le piazzavo io quelle, dove lavoravo, le vendevamo in acciaio, in alluminio, antisfondamento. Oh, quelle in acciaio erano un bel pesante, dunque ci voleva a elettrico. E ci infilava il motore dentro il rullo della serranda. E funzionava a elettrico. Anche quelle base legna, quella tripla come peso, molte, quelle più di 2 metri, grandi, serrande per uscire in veranda, in acciaio, quelle ci mettevamo il motore elettrico e lo ripiazzavo io. Ce l'avevo qua, però poi non me l'ho piazzato nella veranda. Visto, tu non mi hai detto niente. Tu non hai detto niente, se no ho fatto fare a te il lavoro. E di dove era questa serranda? Di casa tua? Di garage, del box. Ne ha piazzato serrande di tutti i tipi, motori, quando lavoravo. E anche molle cambiavo. Perché molte molle in certi posti gli si spaccava perché era acciaio. E allora mi mandava le sostituivo. Hai capito, visto? Adesso sono una cosa in più. Adesso sono una cosa in più, visto? È lui. È uscito fuori un tecnico. Sì, se lavoravo lì all'Overplatz, lì vendi di tutto, pure mobili, qualsiasi cosa ti serviva via tu. E più piacevamo motori elettrici, rifacimento impianti di appartamenti, tutto. Ho capito, un po' di tutto, va. Avanti, signor Don Maria. Grazie a me ci mi è spacciato la molla. Ma la visita con Samira che ce l'avevo. E che molla c'è rotta? No, se la molla è in acciaio vuole sostituita. La molla. Vonnuva. Gira la porta a te che sta molla. Può darsi pure che riesci a aiutarla. Arregami, arrega. Beh, sono andato a chi? Di lusso, di lusso. A Graziano facciamo fare il lavoro. Grazie. Non scherziamo, grazie. Vai, allora io non l'avevo fatta che non li posso fare, però gli mandavo quello che ha preso il mio posto. Allora che è bravo, è veloce pure, non ti abbia pigliato nemmeno tutti i sedinari ai peso. Era lì tu pure di sabato, di domenica, quando piace a te. E te l'abbia fatto ma due cisti. Ma chi si ho visto là? Grazia, sbagliando si impara, capito? Infatti se invece l'aveva fatto bene che l'ha fatto la prima volta, io non l'avevo chiamato la seconda volta l'altro. Siccome il primo che l'ha fatto era un asino, e dunque asino rimane. I primi anni che sono andato in pensione, lo sai la gente che mi chiamava a casa, al telefono. E però glielo dicevo che io non ci potevo andare a farlo, non ne vogliava. E gli dicevo, se vuole gli mando un amico mio che fa lo stesso lavoro che faccio io. Ha preso il mio posto. Ed è bravissimo, e non spende neanche tanto. E mi diceva, me lo mandi. Ma chiamava lui, glielo dicevo, gli davo l'indirizzo, il numero del telefono, si metteva d'accordo, andava a fare il lavoro. A chi io non ne posso fare più? Così vuole, anche quello che mi ha mandato Luca è stato abbastanza gentile. A mezzogiorno mi ha chiamato, dice guarda che vengo alle 5, mettiamo alle 5, alle 4 è stato possibile, sono giù in campagna. Allora dice ci vediamo domani mattina. Invece poi verso le 3:30, 4 mi ha chiamato e dice guarda sto venendo a fare il lavoro della serranda e me l'ha fatto. Già viene già la gente così. E io avevo più lavoro mio che travaglio dell'azienda. A chi si dice che prima chiamavano in azienda, la chiamavano giusto a me, a chi io li facevo l'altro bricio. Miau miau, avanti tu. Io sono un po' stanchino, sono dalle 4 di stamattina sveglio, poi tra la sera fare commissioni. E sono moscio, stanco. Mentalmente sono stanco. L'aggizzo in terra. Eppure ero travaglieri, dare 4 del camani. A Pannareggio mi ha giovato, Luca. Ma sei in apnea, Eri? E allora, uia. E come mai? Stavo lavorando. E cosa eri fanno? Salendo, scendendo e salendo. Ah, le scale, stai facendo i muscoli. E allora, con chi sa bompetta, ero lazzo, ma mantenimi bene. Va bene, dai. Già va bene. Ma va bene, sono contento che abbiamo fatto il lavoro a Bacchiso, ma mi sono un po' esagerato come prezzo, magari se chiamava un altro l'aveva aggrebbato. Lo principale di me, facciamo 3 secchi di avvolgibile, 100 euro, 150. Cato chi si protestava la linea telefoni alla ditta glielo dica. telefonava non incazzato di niente, e gli diceva, lei deve considerare il materiale, l'operaio, il furgone che è venuto lì, non è che io l'operaio lo pago profumatamente, a me mi costa l'operaio al giorno, 300 euro mi costa, così gli dicia. E tu mi dai un biglietto a ritirare 150, 120, 3 secchi di avvolgibili. Allora, a me hanno, mi sa, t'avevo già detto, mi hanno chiamato per cambiare due corde, cioè tu una, ha detto 25 euro, oppure se sono un 3 ti faccio 50. Infatti l'ho detto, ma mi sono un po' troppo 25 euro. È una, poi se hai fatto da 3 ti prendo 50 euro, no? Ma sei caro, ci ha chiamato in un altro allora. Tu li devi dire, a chiamare, li travagliavo io. 25 euro, 25 euro mi accoraggiavo in un furgone, sì. Mi faceva bonito, 25 euro. Minimo, minimo, allora quando c'ero io solamente a cambiare una cinghia erano 80 euro. Vabbè, grazie, ecco. Meglio piccolità che a metà di sia chiuso, no? E poi, comunque mi ha detto che era troppo, invece il vicino di casa gli ha preso 15 euro, ma è buon per te. Ma infatti a questa gente è meglio che non gli faccia niente, si chiama altra gente, a me non mi interessa, tanto meglio, se non mi chiama è meglio, guarda, sono contento, anche se non ne ho, non mi interessa. Già ne ho trovato anche io gente così, però poi ho imparato. L'umbrecio me lo diceva già al telefono, diceva che cos'è che c'ha, cos'è che c'è rotto, che mi diceva che così, così, così, allora ci vuole i soldi, ci vuole tutto. Se vuole vengo, se no se lo faccio lì. E allora mi dice, no, no, venga, non so dove mettere le mani, e allora andà zia. Vabbè, avanti, bacchi. E mi è collegato a Luca, va bene? No, è ancora in cofano, quando io sono andato via da lì, poi sono venuto qua, ho preparato il pranzo e poi siamo usciti, è ancora in cofano. Adesso lo dovrò portare qua, mi porto anche il computer, c'ho un case là, me lo lascio qua, e me lo uso qua. Che no, pensavo che hai fatto tutto. Va bene, va bene. Avanti, Gian Marie, caduto sì. Mangiando fratello, sta grazia. E allora? Io. Così è, ne avevo di lavori. E quando ci fu da lavoro, ma ero pieno. Io già faccio prezzi buoni, dai, non faccio prezzi alti, non sparo alto, ma lo tengo conto. Io per esempio ho una signora vicino a casa e faccio prezzi bassi, mi chiama spesso. L'altra volta che ho cambiato quasi tutte le prese, gli interruttori, e gli ho chiesto 50 euro, non gli ho chiesto chissà quanto. Se tu vai a sparare lì 100 euro non ti chiama più. Ma tu devi considerare anche che devi guardare il tipo della persona, lo vedi di nani, di nasi, non nani. Se esiste una persona tipo come me, non lo strozzavano, li prendevo con fronte al mio datore di lavoro, li pigliavo un quarto di quanto li prendeva il mio datore di lavoro, se li pigliava quattro quarti, e io ne li pigliavo un quarto. E li conveniva, infatti i clienti che c'avevo io erano tutti suoi, e poi tutta quella gente chiamava a me quando c'avevano qualche cosa da riparare. Tu Bacchi, pezzi buoni facevi quando facevi il muratore? È chiaro, e se no non mangiavi. Super buoni prezzi facevo. C'era quello anche, prendevo la sangata, non è sempre a terra terra, c'era qualcuno che allora c'era il colpo grosso. Ciao Bacchi, buonasera. Ciao, buonasera anche a te, avanti. Come va? Come vanno le cose? Non tanto il microfono dalla bocca perché ti hai mangiato le parole. Poi, mamma mia, e saluti cosa mangi, cosa mangi? Sì. E tu, non sei lontano il micro, non si capisce. Vediamo se Luca ha capito qualcosa, vai Luca. una maledetta dentro all'altra, mi mangio. E beh, Vittorio. Oh, e beh, Luca. Ah, mi ha detto Marina che si è passato poco fa verso le 5 e mezza lì vicino a... a Beccedario, come si chiama? A Beccedario. Tu vedi? Qua vedi che sono stati fondi. Luca, cosa ne fai di questo ragazzo? Qualche saldatura la puoi fare? Sì, una. Cazzo, non possiamo riporre di più di una. Guarda, cacchio di Dio, do in corto. Grazie, tu cosa ne pensi? Tre che ne so. Sì, e cosa ci vogliamo fare? Luca, fagnene tre. Sì, mia Tone, no Tone, ne posso una, ma ci vuole qualche Dio da in corto, più di uno. Funziona o non funziona? Adesso vedo qualche integrato pure, eh. E beh, risuscitato, sì. Non ti sento, dove ci sei uscito? Sotto il pavimento. No, grazie, sono Caruso Alessani. Ah, adesso già ti ho copiato. Ciao, aspetta che è entrato. Oh, Tore Squallo, avanti. Tore, caduto sì. Tore è caduto, Tore, è mancata la benzina e il motore non cammina. Capito? Buonasera, Tore, avanti. Oh, dove sei la ritorraliato? Grazie, Tore, non risponde più. Non risponde più, Tore. E sai che fine ha fatto? Se non sarà ammazzo i geni lucani. Ma chi tu dico, do in corto e ancora. E Gian Maria è rientrato, Gian Maria ci sì. Vittorio, attimo un mosopano modiodo. Cos'è che stai dicendo? T'aggi inteso, Lu? Cos'è? Ma sostendi, cos'è? Ma t'aggi inteso, no? Ha giudito di un nominativo diodo, bene, ti piace? Che cosa? Nominativo, Vittorio Diodo. No, al limite gli possiamo mettere il nominativo di Vittorio la buonanima, Vittorio Manica, che era morto. Com'era il nominativo? Non mi rammento. Forse Gian Maria se lo ricorda, io non me lo ricordo. Ma chi se tu non l'hai mai sentito a Vittorio Manica? Sì, ma non mi ricordo il nominativo, lo chiamavo Vittorio e boh, il nominativo non me lo ricordo, mi sembra un po' strano. Vediamo Gian Maria se lo ricorda Gian Maria. Luna Rossa. Ah, Luna Rossa. Capito? Luna Rossa. Dunque a Vittorio li mettiamo Luna Rossa. Luna Rossa. Luna Rossa. È un nome indiano. Ho detto Ugio, come ha detto Marchese, Luna Rossa. Vittorio, bene ti va quel nominativo. Va benissimo, potete chiamare come volete, Vittorio, mettimi puliti, cos'è? Linea rossa oppure cosa lì gioco? Come mettiamo il chiamato? È un nome indiano, Luna Rossa. Ma Luna Rossa? Secondo me va bene. Non Luna Rossa, Luna Rossa. O se no, Diodo anche. No, Luna Rossa no, Diodo. Anche Diodo va bene, mi tu. No, beh, per nominativo non mi va. No, non andava. Ma fatti prima chiamami Vittorio, cosa nominativo. Ma lei si è confuso cosa. Ma che per regola devi avere nominativo, Guarda che nella domanda che devi fare, devi mettere un nominativo per dire il mio è l'originale, Gufo Triste. Ma ecco, davvero? e allora chi non l'hai visto in cucina che fa giù i guffi? Ah, ecco. Oh, Luca, diglielo tu. Ecco. Sì, per regola devi avere un nominativo. Io per esempio mio è soldatino, però mi chiamano in manicomio perché sono casinista, insomma. Luca, la giù tre, alla fine, non lo so. Io oggi mi hanno fatto un regalino, un gufo, un altro gufetto. Gufo tristo. Ma chi c'è? Ehi, ma chi c'è qua? Ah, sono qua, non sono scappato. Vediamo Tore se si sente, con la miseria. Tore, deve essere in giro col cane, grazie. No, ma non penso. Magari l'ha chiamato la moglie, starà facendo qualche cosa. Io penso, è quello cane, è ancora affamitato con un portatile. Con il portatilino attaccato sulla cosa, sulla groppa del cane. L'antenna avrà posto la gola. Tore, ci sei? Non c'è. Gio Maria? Gio Maria sarà posato, ma niente. E tu cosa ne sai, grazie? Molto probabile che sta guardando la TV. Ci stava parlando qua, 5 minuti fa. È sparito. Allora sì, sarà Yamagnendi. E allora, deciso è che nominativo voi. Vedi che Gio Maria ce l'ha dato solo 27, è andato. Lui ha detto, Tore e Gio Maria sono i 27. Ah, il 27 sono. Vabbè. Ma ti sembra giusto a te? No, non c'è trappa neanche allora qua. Ma chi c'ho? Allora, Luca, vai. Ma chi c'ho? Ehi, Tore, buonasera, avanti. Buonasera, uscendo sto. Sì, già stai uscendo, come non stai uscendo? Ma cazzo, già me ne gatta, nessuno mi intendia. E se parli sopra modulazione, ne scotti sente. Se dopo di nati 27, li abbandoni tutto, non ti intendi né no? Sì, so con mezz'ora che ero già me ne nessuno mi rispondia. Però non esci, anche io da giamato, da gentile, basso da giamato, non mi riposo. Ha chiamato Graziano, è nuda, ha chiamato Luca, è nuda. Allora, ho l'apparecchio d'olio che non funziona, o se mo lui non andiamo. Avanti ancora. Qualcosa nello spinotto ci deve essere, boh. Se lo tiro troppo, non funziona. Allora, guardalo, fagli l'operazione. Se lo dai a Luca, lo fa l'operazione Luca. Ma chi già le trovi nella 27, boh? Era in 27, io l'ho sentito in 27 poco fa a Tore. Luca, ci sei? Io a Tore non lo sentivo, poco fa sì. Ho rilanciato ma non mi ha risposto e boh, forse magari non usciva. Ah va, ma così? Anche troppo, abbassa. No, niente, scherzo, dai. Ti ascolto bene. Deve essere lo spinotto, bisogna che non tiri ai nonni. Andiamo, beh, andiamo. Tu tirali di corra lo spinotto. Domani lo controlli, con calma. Adesso grazie, domani mi controllo la roba là, dai. Poi bisogna staccarla dal tubo, sollevarla da, cioè sotto lì c'è il fianchetto che vuole stretto, perché quando la mette a 5 vibra e si fa un casino nero. Anche da me vibrava, però era un pannello del fianco, infatti dalle vibrazioni aveva perso la vite. L'ha trovata Paoletta spazzando, me la sono conservata che non sappia di unire. Poi il giorno che l'ho pulita ho visto di dove era quella vite, l'ho presa e gliel'ho rimessa, l'ho stretta bene. Si era allentata con le vibrazioni, la sera gli ha messo lenta e adesso non vibra più. Vorrei chiedere, per me se Vittorio, questo ce l'ho chiesto di parlare con voi, a lui. E quanti anni hai? 15. No, quelli di 15 anni vanno con i 15 anni e 14 anni. Qua siamo tutti grandi e dunque niente permesso da parte mia. Vediamo cosa ne pensa dottor Luca. Va bene, signor Luca, mi può dare la risposta? No, manco per me non va bene. No, siamo persone grandi noi. Avanti Bacchi, tu cosa dici? Dove? Allora qui facciamo l'asilo, se prendiamo i bambini. No, non è qua l'asilo, l'altro canale. E se non puoi qua, lo sai cosa succede? Ci prendono per pedofili. Adesso che stiamo tanto dicendo? Questo è un canale pedofili. Parlo con tutti in questo canale. Chi diglielo tu? Sono educata, se non vi permetto, però se voi mi rispondete così, che vado all'asilo, queste cose così, mi dà fastidio, poi allora rispondo allo stesso, anche se voi non mi date il tempo. Scusate, i canali sono di tutti, sono pure io, arrivederci. Ehi, non fare il morello però, ma sei maschietto o femminuccia? Piccola. Ah, sembrava femminuccia dalla voce. Io sono maschietto o femminuccia? Luca, chieda a dottor Bacchigio cosa ne pensa. Ma mi sembra la voce di una femminuccia, di una bambina femminuccia, che quello lì non è un bambino, è una bambina. Tu sei un bambino, capisci? È la maschietta o la femminuccia? Sì, vecchio. Ma io con la sola voce, la maschietta o la femminuccia? Ma mangiami un culo. Tu ce l'hai la femminuccia, con la barba. Non parlate male. Sì. Non parlate male, che tutti vi ascoltano. Guarda che voleva entrare insistentemente un bambino. Dore, tu cosa ne pensi del bambino? Grazie, sono io Vittorio adesso. Ehi, ciao Vittorio. E beh, riprendi lui. Eia, hai ragione Ettore, bisogna parlare bene, dai, se ti scappa tanto quanto, ma che abitudine, eh. E cos'è? Ettore, tu sentito hai? Io no, e cos'è? Non ho sentito. Ettore, sto dicendo a te, grazie, Ettore. E Luca, cosa vuoi sapere? Gente, su no, sì. Già l'ho sentito, però bisogna parlare bene perché qua ci ascoltano tutti. Ma io non ho sentito niente, boh. Poi nulla, voi avete qualche anno più di me, quindi, ma io faccio la scuola, ma non sentite di voi. Guarda che non sei uscito tutta tra... Maleducato, randaggio. Sei uscito male, non ti sento. È un vecchietto. È disturbata la frequenza. Bene, bene, dai. Io mi faccio in QRT, per causa merendero. Ciao Luca, buona serata, ciao anche a Graziano, ciao Ettore, ciao anche a Vittorio, buonasera anche agli altri che stanno in ascolto. Bacchigio vi saluta cordialmente, auguro ancora buon question e passo in QRT. Avanti Luca, buona serata ancora. Ehi, ciao Bacchi, da salutoni, buona cena, buon tutto. A domani se Dio vuole, avanti Graziano. Ehi, ciao Bacchi, ricambiato al 100, a domani se coincide. E anche io ne approfitto, là, sono l'ultimo con 4. Ciao Bacchigio, ciao Luca, ciao Ettore, ciao Gian Maria, ciao chi è in ascolto e ciao Vittorio, fate da bravi, rivai Ettore. Ehi, ciao Bacchi, stammi bene, ciao Graziano, stammi bene, ciao a tutti quanti quelli che sono in ascolto, ciao Luca, ciao Vittorio e a tutti quanti, me ne giocano in Ubur, ciao! Ciao, ciao! Ciao a tutti, anche vado a cenare, ciao! Ciao, ciao, ciao Bacchisio e ciao anche a Graziano, vai! Ciao, ciao! Ciao Gio Mari, dai, chiudo pure io, vado a cenare, ciao! A domani, ciao. Eia, ciao Luci, ci sentiamo. Graziano, che ti sia chiaro, a me mi deve